dai più belli è un macellaio e gli altri sono vitelli, è un brutto porco e solo al male crede e frega tutti ma alle donne cede. Del sesso è la dolce schiavitù, lo vogliono, ci devi stare tu. Si infischia della Bibbia e del codice e pensa notte e giorno solo a sé. Le donne sono un peso inutile e per le donne l'uomo è un re. Ma queste frottole son senza effetto, prima di notte avrà qualcuna a letto. Ci sono uomini che vedo gli altri restar legati a un pezzo di sottana, costoro giurano essere scaltri, ma sono fatti della stessa lana. Del sesso è la dolce schiavitù, lo vogliono, ci devi stare tu. Il primo studia i dogmi, l'altro il codice, il terzo crede alla papa, l'altro al re, non mangia mai tartufi a tavola, meglio di lui nessuno c'è. Ma viene la sera ed anche l'uomo retto vuole qualcuna che gli scaldi il letto. Sì, perché gli uomini sono tutti porci uguali.